una stella in cielo. E a te minaccia l'estremo fato. Oibò, tu non l'intendi. Rimone prigioniero, io son tra lacci in mar. S'avvicina al punto in cui spezzo le mie le sue ritorte. Chi prima giungerà quel di tua morte? Quell'ione, una canzone che farai già tempo fu. Quell'ione, a caso di un lascio si provò. E non può allora arrivi sul mare proprio re. Quell'ione, guarda che folle sono. Questi stati con che un povero lunatico stretto da ferri i nodi abbia ancor volontà d'andar cantando. Scuote il mio la comoda e colto il tavolo e uccise in tempo. Addio, va già avanzando l'ora fatale. Ti lascio.